vă cam buntată ca miezza sta via. Nu mangia chiu, nu dorme chiu, că pe cundria. Uei, piccerica, veni a ti sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi to fa fa? Corre in braccio ad un mamma. Guagliù, guagliù. Va o scema, piccerì. Guagliù, guagliù. Dille tutta la verità. Guagliù, guagliù. La mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sì guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu sì guaglione che te mise in capo pa' chiucca o pallone. Che bonne di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma. Guaglio, guaglio. Fa scema, picceri. Guaglio, guaglio. Dille tutta la verità. Guaglio, guaglio. Che mamma te può capire. Non pitta, non alliscia sti mustaccilo. Non cerca te, non so per te chi lo è chi è bello. Non pensava a pazzia quel quale un cielo. Non t'avvelice tempo in ippo t'inguaglia. Chi desidera passare, guaglio, guaglio. Scordate la picceria, guaglio, guaglio. Casi o dice na papà, guaglio, guaglio. Chissà come va per me. Conosce femmine, sei ancora così giovane. Che bonne di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Corre in braccio ad un mamma, guaglio, guaglio. Non fa uscire piccerì, guaglio, guaglio. Dille tutta verità, guaglio, guaglio. Che mamma te può capire. Stai sempre campuntata e camie da sta via. Non mangia più, non dorme più. Chi to fa fa?